Allora, la storia che ci racconta Hobbes è la seguente. Dice Hobbes, gli uomini, prima che nascesse la civiltà, prima che nascesse lo Stato, vivevano in uno stato di natura. Nello stato di natura, quello che noi chiamiamo stato di natura, state of nature, proprio state of nature, stato di natura, nel cosiddetto stato di natura, le ineguaglianze, le diseguaglianze tra le persone, tra gli esseri umani, sono fortissime, sono molto forti, e quello che decide il rapporto tra le persone è la forza fisica. Le persone che sono fisicamente più forti sottomettono le altre. Quindi, intanto diciamo i maschi, il maschio, la parte maschile dell'essere umano, siccome è muscolarmente più forte, non mi guardate a me che sono un esempio totalmente mal riuscito di esemplare maschile, ma sono in senso generale, il maschio è più forte della femmina, il cacciatore è più forte del agricoltore, fa un po' di confusione in realtà Hobbes, perché come dire, suppone che nella natura già la gente coltiva sulla terra, cosa che non è vera, no, magari quelli che c'erano, ma non in questo supposto stato di natura non si coltivava la terra, insomma. Insomma, era la forza fisica che contava. Quindi era questo stato di natura, è una situazione di soffronto continuo, di continua violenza, di continua battaglia, di continua lotta, ma in cui il debole soccombe sempre. Come è scritto in latino questo libro, questo Leviathan, la frase che conia Hobbes poi avrà un grandissimo successo, e me la scrivo in latino ma poi me la tradurrò, tanto è semplicissimo. Beh, dice, lo stato di natura è un bellum omnium contra omnes. Cioè, è una guerra, bellum vuol dire guerra, in latino, è una guerra di tutti contro tutti gli altri. Una guerra di tutti contro tutti gli altri, è una guerra generalizzata. C'è una guerra, perché non ci sono istituzioni, non ci sono regole, sociali, non c'è nulla, l'uomo vive isolato in qualche modo, in qualche maniera, forse c'è già una famiglia, suppone che ci sia già una che anche la come famiglia poi embrionalmente una istituzione, no? Quindi, però vabbè, ci sono un sacco di contraddizioni ovviamente in questo, però dopo la critica la facciamo dopo. Allora dice da qui secondo Hobbes nasce non solo quella che noi oggi chiamiamo civiltà, ma nasce addirittura la società, cioè l'uomo diventa socio quando qualcuno si rompe le scatole, chi sono soprattutto i più deboli, quelli che le pigliano sempre, quelli che arrivano alla sera con i pernocoli sulla testa, denti rotti, occhi neri e soprattutto depredati di tutto quello che hanno fatto durante il giorno, perché è arrivato quello più grosso che gli ha portato via tutto, gli ha violentato la donna, gli ha tolto tutto, no, perché lo ha con tutti e mazzinati. Allora qual è il rimedio che trovano questi esseri umani contro questa cosa? E dice, va bene, facciamo un patto, ci mettiamo d'accordo. Finora siamo stati liberi, eravamo liberi, però in questo stato di libertà generalizzata chi è più forte comanda, perché siamo tutti liberi, non ci sono regole, chi è più forte comanda. Ci mettiamo d'accordo, alieniamo tutti ci alieniamo, cioè ci priviamo, ci spogliamo di una parte della nostra libertà, facciamo un patto tra tutti noi che siamo qua per evitare di essere cornuti e mazziati tutte le sere, tutti i giorni, ci spogliamo di una parte della libertà, conferiamo questa libertà a qualcuno che sta sopra di noi, sopra, quindi è un soprano, però il soprano è quello che canta, quindi un sovrano, affidiamo a lui quella parte di libertà di cui ci siamo privati noi, e questo sovrano istituisce le regole, quindi per esempio vieta a chi è più grosso di me di venire con un mazzapicchio e di farmi 5 di torto sulla testa, gli passa, questo non si fa più, perché sennò ti metto in sulla galera. Cioè nasce quella che dice chiara società. Quindi questa è una teoria, diciamo, di tipo contrattualistico. Secondo Hobbes la società nasce da un contratto per evitare i guai di questo stato di natura, abbiamo anche stato di natura, così abbiamo scritto tutte le paroline fondamentali. Il contratto è lo strumento attraverso il quale gli uomini si mettono d'accordo per superare questo cosiddetto stato di natura, che è una guerra di tutti contro tutti, nella quale non ci sono le regole, siamo tutti un po' meno liberi, però siamo più sicuri. Se ci pensate bene, è questa storia del barattare la libertà con la sicurezza, è una cosa, non è mica nuova, cioè non è mica che sono finita allora. Ci sono interi partiti politici oggi, in Italia e in tutta Europa, che propongono più o meno lo stesso scambio, no? Per essere sicuri, per essere tranquilli, che gli zingari non ci rubano i bambini, che gli africani non ci rubano il lavoro, o che gli arabi non ci rubano le donne, a caso, dico, poi si possono anche rimescolare le robe, e ci priviamo un po' noi, ma soprattutto questi altri soggetti terribili della nostra libertà, e questo è il prezzo che paghiamo per essere sicuri, cioè per poter sedere a casa alla sera sul nostro divano a guardare la nostra televisione, cosa che potremmo fare lo stesso anche se ci sono in giro gli arabi, perché basta stare a casa a guardare la televisione, però siamo più sicuri, così sappiamo che non ci rubano niente, che non ci sono gli assassini, che non ci sono gli spacciatori, che non ci sono... Naturalmente poi sappiamo che ci sono comunque questi, perché non sono detta. Però questa è una vecchia, insomma, idea. Capite che qui c'è la questione della... Ora, paradossalmente, questo discorso, questo raccontino di Thomas Hobbes, il quale ce lo presenta come una cosa scientifica, dice guardate che le cose stavano davvero così, c'era lo stato di natura, dice io non c'ero ma mi hanno raccontato così, no, non si sa bene come, comunque Hobbes è, diciamo, convinto che questa sia una ricostruzione, lui è convinto, comunque convince gli altri, che questa sia una ricostruzione obiettiva della storia dell'umanità, le cose sono davvero andate così, nello stato di natura c'è la guerra di tutti contro tutti, quindi per eliminare questo pericolo e questo rischio, per acquisire una sicurezza, si crea lo Stato. Quindi ipotesi contrattualista, in che cosa consiste questo, diciamo, contratto? Consiste nel fatto, attenzione, ci racconta Hobbes che in questo modo la questione della forza non c'è più? No, in realtà la violenza continua ad esserci e i conflitti sociali o le disparità o gli scacci tra le singole persone continuano a essere risolti con la forza, come prima. Se io rubo la bottiglietta d'acqua a Fabio, e Fabio mi denuncia, arrivano i poliziotti che mi prendono con la forza, mi portano con la forza in un'aula di tribunale. Se lei ruba questa acqua, non nessuno ha visto, può dire dove l'ha beccata. Nessuno l'ha visto, sì, certo. Ma supponiamo che uno mi veda, se Fabio mi vede e sa che io gli ho rubato l'acqua, Fabio mi denuncia, no? Fabio non posso fare denuncia. Perché non può? Gli ho rubato l'acqua, sì che può. Chi visto? Visto? Se non ha visto nessuno, sì, certo, non c'è nessuno, chiaro, va bene. Ma questo neanche Hobbes risolve, se nessuno vede, cioè, se io picchio Fabio e nessuno mi vede, no, cioè, dice, e tu hai picchiato Fabio? No, non sono stato io, capo. Ma se io rubo l'acqua e qualcuno sa che io ho rubato l'acqua, ci vogliono delle condizioni, certo, mi convincono con le buone a rendere l'acqua a Fabio? No, mi condannano. Mi fanno un processo, arrivano dei poliziotti con delle pistole o con degli sfollagente, con delle armi, no? Usano una forza su di me, una violenza, perché io ho commesso un reato, avendo commesso un reato. Quindi questo processo descritto da Hobbes non significa che la formazione dello Stato bandisce l'uso della forza. Che cosa succede semplicemente? Succede che si stabilisce all'interno della società un corpo sociale, una classe, un gruppo sociale, una funzione sociale autorizzata, che è autorizzata, che legittimamente esercita la forza, mentre tutti gli altri non possono più esercitarla. Non la può più esercitare il mio vicino di casa che alla sera, tutte le sere veniva, mi dava quattro macciate in testa, mi rubava la frutta che aveva raccolto e si scopava mia moglie. Quello non può più, sì, che faceva tutto così, questo è il bellum omnium contra omnes, è questo. E io poi che cosa facevo? Andavo, cercavo quello che era ancora più magrolino di me, cosa che molto difficile, ma ne trovavo uno e facevo la stessa cosa con lui, trovavo la frutta e gli scopavo la moglie, anche a lui, fino a che la moglie non mi menava a me, evidentemente il circolo si chiudeva, insomma, questo Hobbes non lo dice. Quindi non è che si smette di usare la forza si continua ad usare, semplicemente nello Stato è legalizzata. Perché vi racconto questo? Non solo perché, come voi capite, c'è implicata una questione, in qualche modo vuol dire che da un certo punto di vista, come dire, l'argomento dell'universalista contro il relativista che dice se non c'è un punto di vista assoluto, allora i conflitti si risolvono con la forza, è un po', come dire, ridicolo, perché ogni conflitto in essere umano è comunque sempre risolto con la forza, con una forza legalizzata, ritualizzata, ufficializzata, con lo Stato, diciamo. Che cos'è lo Stato? Lo Stato è, possiamo definire lo Stato come quel gruppo di persone che ha il monopolio legale della violenza. Ma usa sempre la forza, usa sempre la violenza. Le tasse le devo pagare per forza, se no mi diciamo condannano. Cosa? Mi portano via con la forza. Mi portano via con la forza, mi privano della diciamo libertà, mi sottopongono a delle cose di violenza. Quindi il punto di vista hobbesiano, al di là del fatto che ovviamente questa storiella dello stato di natura è ridicola, perché non esiste, semmai la ricerca etnografica nei secoli successivi ha semmai dimostrato lo contrario, che in un ipotetico stato di natura, gli esseri umani sono, non che non ci sia forza, non che non si usi la forza, in qualche maniera la forza fisica si è sempre usata in tutte le diciamo, società con lo Stato, società senza Stato, società società agricole, società di nomadi, predatori, ma nelle società cosiddette civili, cioè dove c'è un'organizzazione chiamata Stato, che quindi ha dei mezzi, si procura dei mezzi per la forza e per la violenza più forti di altri, semmai aumenta la forza e non diminuisce, aumenta il grado di violenza. Nelle cosiddette civiltà il grado di violenza aumenta e non diminuisce, è maggiore e non minore che in altri tipi di, diciamo, società, semmai. Aumenta, però è, come dire, concentrato, ufficializzato, legalizzato. Se posso fare un, diciamo, un commento per tentare di ricondurre questa cosa ad altre cose che vi ho detto con precedenza, si tratta, come voi sempre ben capite, di una questione di linguaggio, una questione linguistica. Basta che io dico il signore XY è autorizzato a usare la forza e corroboro questa mia affermazione dotandolo di un vestimento adeguato, chiamato divisa, con il quale può essere riconosciuto a occhio, gli do un tesserino e lo fornisco di alcuni ovvi strumenti per esercitare questa, come dire, violenza, quindi sfollagente, mazzapicchio, mazza da baseball, pistola, fucile mitragliatore, fino alla bomba atomica, e ho tutta la gamma e la variazione delle persone autorizzate ad esercitare violenza nella società, dal vigile del quartiere, che è la pochissima, al fantaccino, al fante, al soldato semplice, al diciamo generale, all'aviatore, al conduttore di carri armati, a tutte queste figure di cui c'è, no? Di cui è costituito, sono costituiti quei corpi specializzati nella forza e nella violenza, che sono la polizia, l'esercito, le guardie carcerarie, eccetera, eccetera, eccetera, tutto come... Ora, è interessante che nel secolo successivo, cioè nel XVIII, la persona che... formula una ipotesi, diciamo, il possibile lontana da questa, che è il ginevrino di lingua francese Jean-Jacques Rousseau, il quale è uno di quelli invece che sostengono che nello stato di natura non c'è questa guerra così generalizzata, non c'è, certo c'è disordine, c'è così, ma non c'è questa cosa. Però anche lui, quando deve spiegare dal suo punto di vista come nasce lo Stato, utilizza in realtà lo stesso modello di Hobbes, uguale. Cioè dice c'è un contratto. E infatti l'opera politica principale di Jean-Jacques Rousseau si chiama Le Contrat Sociale. Il contratto sociale. Quindi l'idea del contrattualismo, e adesso non ho il tempo di entrare, insomma, però anche in Rousseau in qualche modo c'è questa idea di uno stato di natura, che non viene descritto nello stesso modo di Hobbes, però c'è anche in lui c'è questa idea del cosiddetto stato di natura. E diciamo la formazione della, come dire, società è vista, ha sempre questa origine contrattuale, contrattualista. È poco spiegabile che questo modo di pensare contrattualista nasca, diciamo, tra la fine del Medioevo e l'inizio del Novecento. Niente affatto perché il contratto, se voi ci pensate bene, cioè la stipula, cioè l'accordo che si trova tra due persone che si siedono intorno a un tavolo o da una parte all'altra del tavolo o anche per terra in campagna, ma che concordano, si mettono d'accordo, dice tu fai questo, io faccio quello, sì, ci stringiamo la mano, è lo strumento principale di società mercantili, di società la cui una delle cui forze principali è il commercio. È il contratto, questo è. Colui che produce dei mezzi, colui che produce dei beni può anche fare a meno dei contratti, fino a un certo punto, perché poi se deve procurarsi la materia prima dovrà sempre fare un accordo con qualcuno che gliele dia. Se vuole vendere le sue, se vuole piazzare le sue mezzi dovrà fare un accordo con qualcuno che gliele compri, ma diciamo che l'essenza del contrattualismo è qualcosa che è fortemente legata con il commercio. Il commercio, in inglese sapete che si dice trade, e capite anche che, sapete forse anche, se non di voi sa il latino, che il vocabolo inglese trade deriva da un verbo latino che è tradere. Tradere. Che vuol dire consegnare? Infatti commerciare è consegnare qualcosa, dare qualcosa a qualcheduno e averne in cambio dell'altro. In italiano questa parola, questo verbo latino tradere ha dato origine a quale parola? Tradire. A tradire. Che è un significato, diciamo, secondario che poi ha finito in italiano per soppiantare quello originario, ma che ha sempre a che fare con la cosa che cosa vuol dire tradire una persona? Vuol dire consegnare questa persona o delle informazioni su questa persona ad un'altra persona, facendo in modo che questa persona possa fargli del male, possa non mantenere un contratto. Dal punto di vista pratico è diciamo, come dire, è vero, però dal punto di vista etimologico tradire è un intensivo di tradere, quindi vuol dire consegnare qualcosa a qualcuno. Se tu consegni a un'altra persona delle informazioni su una terza persona per cui questa seconda persona possa fare del male a questa terza persona, tu hai tradito questa terza persona. Se tu avevi, cioè, guarda, ti dico a te dove sto, c'ho un creditore che mi cerca, io adesso me ne vado in campagna, tu non dirgli dove sto, perché sennò, oppure c'ho un marito geloso che mi serve, tu non dici dove sto, se tu dici guarda che Caronia sta lì, no? Allora Caronia è stato tradito, no? Io sono stato consegnato, qualcuno ha detto al creditore o al marito, diciamo, geloso, dove stavo io, e quindi sono stato tradito. Ma l'origine del verbo è come dire, sempre quella. Ora, il commercio, in qualche modo, cioè lo scambio, è da sempre una alternativa alla violenza, cioè è qualche cosa che fino dall'inizio esclude la violenza. Faccio esempi semplici perché, ripeto, sono per sfatare questa idea del cosiddetto stato di natura in cui non ci sarebbe stato, non esiste questo stato di natura, perché non, diciamo, non esiste, ma voi insomma capite bene di dove viene questo dello stato di natura, non se l'è inventata Hobbes l'ha solo, Hobbes gli ha solo dato una coloritura, diciamo, diversa, gli ha aggiunto appunto questa questione della forza. Ma il mito da cui questa cosa proviene è un mito diffuso perlomeno in moltissime, in quasi tutte le popolazioni indo-europee e semitiche, e a noi ci viene da un mito semita, che è quello della Bibbia, giusto? Il paradiso terrestre, questo è lo stato di natura. Quando l'uomo viene creato non c'è una società, anche perché Adamo è solo, poi vabbè, gli fanno Eva, ma Adamo ed Eva, al massimo sono in due, poi cominciano a fare figli, ma stranamente vedi che un po' cominciano a fare figli, pare solo dopo che sono stati cacciati dal paradiso terrestre, durante tutto il primo racconto della prima parte non compaiono figli, né Caino, né Abele, né diciamo nessuno. Compaiono solo dopo che sono spacciato dal paradiso terrestre. È il mito dell'età dell'oro di cui parla Esiodo, quindi un'altra diciamo, tradizione di. Un altro mito, un'altra tradizione di pensiero, in cui uomini camminavano fianco a fianco con gli dèi sulla terra, vivevano insieme, non c'era conflitto, non c'era. La cosa geniale di Hobbes sta nel prendere questo vecchio mito, no? E nel cambiargli segno e dire guardate che non era così come voi pensate, come dice la Bibbia. Non è proprio così, lo stato di natura era incasinatissimo, era terribile, ci faceva del male, c'era la violenza endemica e generalizzata, poi è arrivato il contratto, no? Nel caso particolare di quello descritto da Hobbes, ma anche da Rousseau, che invece è un repubblicano, che invece è un buonista, che invece è un veltroniano antelitteran, insomma, però anche lui ha questa idea, che nello stato di natura c'era qualcosa che non andava bene, insomma, e si supera con la, diciamo, civiltà. Certamente era molto più critico Rousseau nei confronti della, come dire, civiltà. Quando l'uomo bianco, insomma, l'europeo, dopo aver scoperto, diciamo, il nuovo mondo, insomma, l'America, entra in contatto con queste, diciamo, civiltà, con queste piccole civiltà, due o tre civiltà c'erano, gli Aztechi, i Maya, gli Inca, ma nel nord, nel continente, diciamo, non c'era nessuna civiltà, c'erano dei gruppi, delle piccole società, di poche centinaia di cioè persone al massimo, dei clan eventualmente riuniti in comunità più grandi chiamate, diciamo, tribù. Di persone che, ripeto, non che non fossero violenti, perché c'era la violenza anche in quelle come dire, culture, ma in cui per esempio non c'era una tradizione bellica, una tradizione di guerre così sanguinose come quella che c'era in quel periodo in Europa e che avrebbero fatto a poco, no? le guerre di religione sarebbero scoppiate, prima la guerra dei 30 anni, poi la guerra dei 100 anni. Diciamo, la riforma protestante avrebbe come dire, insomma, scardinato, avrebbe insanguinato, insomma, l'Europa. Allora, la prima insomma, risposta, quindi dal punto di vista della forza, insomma, quindi per come posso concludere, non è colpa del relativista, non è come dire, non è insito nell'abbandonare il punto di vista della dimostrabilità o della esistenza di affermazioni che godono del privilegio di essere universalmente vere. Non è questo che dà luogo che porta a utilizzare la forza come strumento di risoluzione dei conflitti. La forza come strumento di risoluzione dei conflitti in ultima analisi è qualcosa di ineliminabile dalla cosiddetta natura umana, se c'è, o quindi non è relativa. E storicamente bisogna dire che invece sono state le società e le culture più accanitamente universaliste che hanno praticato l'uso della forza come risoluzione dei conflitti. L'Inquisizione, chi se l'ha inventata? L'Inquisizione che è stata, diciamo l'Inquisizione perché storicamente è uno degli strumenti più esclusivi, più violenti e più insindacabili della perché diciamo è un tribunale ecclesiastico che è l'emanazione di una comunità di, diciamo, credenti, che in ultima analisi è l'emanazione di Dio, e quindi c'è questa gerarchia: Dio, il Dio, Gesù Cristo, il Papa, i Vescovi, e poi questi, diciamo, giudici, questi codici, se tu sei un eretico. Io, giudice, affermo che tu sei scomunicato, che sei fuori dalla comunità per quello che tu pensi, per quello che tu fai, ma anche soltanto per quello che tu pensi. E poi che cosa fa l'Inquisizione? L'Inquisizione si suonava così, perché non era come dire, l'Inquisizione poi che combinava la condanna. L'Inquisizione usava la forza e la violenza solo come strumento di tortura, cioè come strumento per estorcere eventualmente la confessione all'inquisito. Ma poi, una volta che l'inquisito era stato dichiarato eretico, l'inquisizione passava questo prigioniero al cosiddetto braccio secolare, cioè erano i giudici, era diciamo lo Stato, che all'epoca era evidentemente molto, non era affatto, diciamo, separato dalla Chiesa, anzi era una emanazione della Chiesa, perché gli imperatori venivano incoronati dai papi, quindi insomma era una, come dire, società che si... Insomma, quindi secondo me la risposta fondamentale che bisogna dare a questa cosa è che, allora, primo è che storicamente l'assolutismo non ci ha affatto, diciamo, garantito dal fatto che non sia la forza lo strumento risolutore dei, come dire, conflitti. Secondo, però, perché vi ho raccontato la storia di Hobbes? Perché, e qui c'è parola da fare, il termine giusto da, come dire, usare è ideologia. Il racconto di Hobbes sull'origine dello Stato e sulla guerra di tutti contro tutti nello Stato della natura è ideologia pura. Che cosa vuol dire ideologia pura? È una storia, una, diciamo, narrazione priva di fondamento, o comunque in cui la cosa più importante non è che sia storicamente fondata, perché non lo è, perché non è mai, perché è una pura e semplice invenzione, perché non si può parlare di stato di natura. Se l'uomo è stato in un ipotetico stato di natura millenni e millenni fa, quando era uomo, lo è ancora adesso, perché gli esseri umani sono, come dire, se questo essere umano parlava, già non era in stato di natura 50.000 anni fa o 100.000 anni fa. O se lo era allora, lo è anche adesso. Cioè, non c'è stata una differenza sostanziale. La cosa fondamentale è che l'essere umano è un essere dotato di linguaggio. Il linguaggio porta con sé una rappresentazione, la rappresentazione porta con sé delle istituzioni, e automaticamente lo stato di natura non c'è mai stato. Da quando c'è l'uomo non c'è lo stato di natura. L'uomo non ha mai vissuto come un animale, come gli altri animali. Se viveva come gli altri animali, non era uomo. E nei mammiferi più evoluti noi troviamo comunque in germe le cose molto simili. Nella gerarchia dei branchi di mammiferi ci sono dispositivi molto simili a quelli che poi nell'uomo sono i dispositivi sociali. Quindi già nello stato di natura c'è l'embrione, questa, non esiste l'uomo senza istituzioni, senza linguaggio, senza organizzazione. Non ci sarà l'agricoltura, non ci sarà lo Stato, ma c'è comunque una società con delle istituzioni. Perché istituzione c'è ovunque c'è linguaggio. Istituzioni di vario tipo, di vario tipo. Ora però, questa storia è interessante e sintomatico che l'ideologia, quindi l'ideologia vuol dire la giustificazione a posteriori di qualcosa, di che cosa ci deve giustificare Hobbes? Che cosa deve deve giustificare con la sua storiella dello stato di natura, e cioè di una società, di una condizione umana che sarebbe caratterizzata dalla violenza generalizzata e endemica. Che cosa deve giustificare? Che cosa copre la sua ideologia? Copre esattamente questo, cioè che lo Stato, l'istituzione di cui lui ci racconta la storia e la Genesi, è lo Stato il violento, è lo Stato che è organizzato su dei corpi armati, che organizza il monopolio della violenza sociale, è lo Stato che ha l'esercito, le prigioni, le carceri, gli ospedali, le scuole, cioè tutti i luoghi in cui gli esseri umani vengono presi, segregati, addestrati, disciplinati, gli si insegna a stare fermi, a stare attenti, a ascoltare uno che parla, oppure devono stare dentro una cella, tutte scuole, manicomi, cioè, sono in vari modi, ma sono tutti luoghi in cui si esercita la violenza. Lo Stato è un insieme di istituzioni basato sulla violenza, sulla forza, legalizzata, istituzionalizzata, giustificata. Il signor Hobbes è uno dei più grandi omeopati della teoria, lui vuole, perché dico che è un omeopata? Perché ci vuole spiegare la violenza, la forza dello Stato, raccontandoci una storia di violenza. Ha solo cambiato, le carte in tavola, volendo potremmo accusarlo di essere uno di quelli che fa il gioco delle tre tavolette, cioè ci vuole cambiare, perché ci racconta questa storia della natura, ma la forza è ineliminabile. Sei soddisfatto o non soddisfatto? Sì, purtroppo devo andare via, avrei continuato il discorso settorializzandolo su alcuni ambiti, però... Facciamo un'altra volta. Chiudiamo alle 8 là? Sì. Ciao. Ciao. Allora, la pausa la facciamo verso le 4, perché mi hanno detto adesso che stanno girando un film e avrebbero sicuramente bisogno di un po' di pubblico, cioè di un po' di persone. Stanno girando una cosa, poi andate giù, vi fate magari spiegare. Dura una ventina di minuti. Allora, facciamo pausa alle 4, poi alle 4 e mezzo facciamo l'ultima. Facciamo l'ultima ora di lezione. Allora, già che ci siamo però, credo che possiamo continuare con questo, a meno che qualcun altro non abbia visto lì. Vabbè, ma c'hai delle cose da come dire, la seconda parte, la seconda parte, quindi... Può darsi siano collegate con la prima. La seconda parte in cui si parla di? Quando c'era Foucault. Castoriadis. Sì, esatto. Esatto, lui. Allora, io confesso che di quei quattro autori lì di cui parla lui, l'unico che conosco, devo dire, decentemente bene è Foucault. Sia di Castoriadis che di Rorty, che di Serre. Ho letto qualcosa, ma non ci ho mai tantissimo riflettuto. Però se è una roba su Foucault, comunque no. Posso dirti delle cose anche sì, altre, no, ma non è una cosa. Niente. Comunque, se hai qualche cosa da chiedere, chiedila. Sì, no. Momento. Vabbè, ok. Allora, avrei approfittato per fare qualche passo più in là, secondo me, perché mi piacerebbe a questo punto fare un passo avanti e generalizzare questo spunto che ho dato adesso sul carattere ideologico del discorso di oggi. Dunque, io intendo il termine ideologico in questo senso, nel senso in cui lo intende Marx, quindi non come lo come è stato inteso, eccetera. Per Marx, diciamo, l'ideologia è un racconto, una narrazione, una giustificazione a posteriori che serve per fare l'apologia di, diciamo, di qualche cosa, serve per giustificare un certo stato di fatto, nascondendo però i rapporti reali che ci sono in quella situazione e dandone una descrizione alterata, edulcorata, falsata, distorta, in modo da fare credere che questa, come dire, situazione abbia un fondamento che non ha. Allora, Ibáñez non lo dice nel suo libro, ma io sarei un po' più violento di lui sulle composizioni universaliste e assolutiste e farei questa ipotesi. Questo non esclude che non ci siano anche un sacco di assolutisti in buona fede, ma in ultima analisi, in fondo, la vera ragione per la quale si elaborano discorsi sulle verità assolute o sui fondamenti ultimi, sui fondamenti più solidi delle affermazioni, l'intenzione, ancorché inconsapevole, di tutti questi discorsi è sempre ideologica. Che cosa maschera il discorso? Che cosa vorrebbe farci credere il discorso, diciamo, dell'assolutismo? Che cosa vorrebbe farci credere il discorso che afferma che ci sono affermazioni e asserzioni che hanno un carattere di solido fondamento, che presentano una corrispondenza precisissima con degli stati di cose? Vogliono nascondere il fatto che invece questi stati di cose non hanno questa come origine, non sono fondati in un qualche carattere oggettivo delle cose, sono il risultato di rapporti di forza tra gli esseri umani. Sono sempre stati i rapporti di forza che hanno generato, costituito e provvisoriamente cristallizzato le situazioni, per esempio le formazioni sociali. Ma non è per un fatto di sopravvivenza, cioè nel senso che mi associo, perché altrimenti da solo non potrei. Allora, non come essere mancanti, questo è indubbio, cioè diciamo il discorso del contrattualismo non è totalmente privo di fondamento. È privo di fondamento pensare che l'uomo abbia mai, che gli esseri umani abbiano mai conosciuto una fase precontrattuale. Non c'è mai stata una fase precontrattuale. L'essere umano, in quanto essere linguistico, in quanto mammifero, intanto, in quanto mammifero, i mammiferi tutti cooperano tra loro. Sono ben poche le specie di mammiferi che sono isolate. Qualche specie di orso, la gran parte dei mammiferi vive in piccole società, vive in branchi. Ma certamente la cooperazione di un branco di lupi o quella di un branco di gorilla è meno forte, è meno sviluppata della cooperazione tra gli umani. E ma perché? Perché l'uomo? Perché la cooperazione dei gruppi umani è più forte, è più organizzata, è più strutturata e quindi anche più efficace della cooperazione di altre specie animali, soltanto per il linguaggio. Questo è il fatto, è linguistica, la nostra, il... vediamo. Perché parliamo, certo, e quindi parlando possiamo rappresentare e rappresentando possiamo immaginare qualche altra cosa. È impossibile prevedere qualcosa se non si parla. Se non hai uno strumento, se non si parla, se no... se uno trovasse un qualunque altro strumento che funziona come il, come dire, linguaggio, ma che raddoppia il mondo, cioè che lo proietta fuori di me, nella mia testa, andrebbe bene lo stesso. Gli esseri umani hanno questo che ci possiamo fare, questo è il nostro. Quindi dal punto di vista anche la tecnica è inseparabile dal linguaggio. Per questo, come vi ho detto 10.000 volte, io non credo che Homo sapiens sia l'unica specie che avesse il linguaggio. Qualsiasi specie che scheggia pietre deve avere qualcosa di simile al linguaggio, se non è un linguaggio esattamente come il nostro, ma ha già degli strumenti di rappresentazione che devono essere per forza, diciamo, sviluppati. All'interno però di questa situazione cooperativa e collaborativa, e che, attenzione, faccio una piccola parentesi, dice il mio amico Marchesini, scrive il mio amico Marchesini nel libro Postiuma, fino dall'inizio, nel caso degli esseri umani, l'uomo è aperto, si apre molto presto a una collaborazione interspecifica, anche con altre specie animali. L'addomesticamento, diciamo, di alcuni individui di specie lupine, di alcuni lupi, che ha dato origine poi addirittura a una nuova specie di animali che non c'era prima dell'avvento dell'uomo, che è il cane. Il cane è una evoluzione del lupo, ma non è già più un lupo, quindi vuol dire che è così antica la cooperazione tra uomini, quindi tra esseri umani e un'altra specie animale che è il lupo. È una cooperazione semplice, no? Basata sul fatto che il lupo trova comodo, alcuni lupi trovano comodo poter usufruire di fonti di cibo che non si devono procurare direttamente loro con la loro forza fisica, ma per cui possono utilizzare questo altro animale che ha strumenti più raffinati dei suoi e quindi più efficienti dei suoi. Probabilmente un lupo da solo non riuscirebbe mai a cacciare un arce, o forse neanche in 10 lupi, mentre vede che gli uomini invece ce l'hanno, e quindi da un certo punto di vista ha un vantaggio. E l'uomo ha il vantaggio che può abbinare ai suoi sensi, alla sua vista che è buona, eccetera, eccetera, i sensi di un altro animale, per esempio il fiuto del lupo, l'udito del lupo, che è più forte del suo, che è più specializzato in altri campi. Quindi questa è una cosa che a poco Marchesini pone questa come una delle definizioni dell'uomo. Dice, l'uomo è un essere che è caratterizzato da una tendenza verso la collaborazione non solo intraspecifica, cioè tra membri della propria specie, ma anche interspecifica con membri di altre specie. Io cercavo di fare un discorso quando dico i rapporti di forza, però intendo un'altra cosa, cioè intendo, voglio dire, una volta che si è instaurata una situazione di collaborazione, comunque, quindi c'è un gruppo piccolo o grande che sia, c'è già una società, no? L'uomo non esiste senza la società, l'individuo è un'invenzione molto tarda, è un'invenzione della, come dire, modernità, anticipata dai greci, certo, dal pensiero greco. Cioè, direbbero McLuhan e Kirchhoff, l'individuo è un prodotto dell'alfabeto, insomma, in qualche modo. che sia proprio poi del tutto vero, è il prodotto di qualcosa in cui c'entra anche l'alfabeto, certamente, ma di un processo forse un po' più complesso del solo alfabeto. Ma all'interno di una, come dire, collaborazione, anche della collaborazione più egualitaria, della collaborazione più meno gerarchica che ci sia, beh, in qualche modo le differenze individuali ci sono, le chiamiamo individuali anche se non c'è l'individuo nel senso nostro, no? Il singolo essere umano all'interno di un gruppo, c'è una divisione del lavoro spontanea. Parlo di prima dell'agricoltura, quindi parlo di gruppi umani che fanno attività complesse ma non così terribilmente specializzate. L'agricoltura è la prima attività umana in cui c'è una divisione del lavoro più forte, perché c'è una serie di operazioni, selezionare certe varietà di piante, poi seminarle, poi fare la semina, poi fare tutto quello che viene prima della semina, dopo la semina, accudire questa pianta mentre cresce, poi fare il raccolto, poi... La nostra rovina. La nostra rovina è quella, no? Insomma, questo, come dire, punto di vista, ben prima dell'industria è ovviamente la nostra rovina. È ovvio che viviamo più comodi con l'industria, io non so te, non mica sono cretino, però obiettivamente bisogna dire che insieme con quello si sono inseriti dei strumenti. Ma la questione dei rapporti di forza, io dico, c'era anche prima, perché dov'è la questione dei rapporti, dei rapporti di forza o della forza? Sta nel fatto della disuguaglianza, della diversità, della differenza che c'è tra tutti gli esseri umani, certo, tutti siamo diversi, differenti, c'è uno che è più grosso di me, c'è uno che è più piccolo, c'è uno che è più acuto, c'è uno che sa raccontare meglio le storie, uno che sa raccogliere meglio, cioè, ognuno di noi fa delle cose, cioè, tutti sappiamo fare grosso modo le stesse cose di fondo, e tutti sappiamo fare la stessa cosa di fondo che è parlare, tutti parliamo uguale, questa è la cosa che diciamo ci rende uguali, tutti parliamo, ma è anche vero che non tutti sappiamo fare con il linguaggio le stesse cose, c'è qualcuno che con il linguaggio per esempio racconta delle storie meglio di altri, qualche altro invece è capace di raccontare, spiegare un processo tecnico meglio di altri, ecco. E poi ci sono le varie, diciamo, differenze, le varie cose tipiche. Da un certo punto di vista, allora, quando si crea un conflitto, e conflitti ce n'è sicuramente anche dentro con società pre-agricole, perché il conflitto nasce dalla differenza, nasce dalla diversità. Io sono diverso da uno, posso avere voglia in un certo momento. In ultima analisi, chi risolve il conflitto in una situazione, come dire, linguistica, ci sarà una mediazione linguistica, certo. Fra le altre specie animali non c'è. O meglio, però vedete che anche gli animali, quindi non è poi così differente la situazione. Voi sapete bene che nella gran parte dei casi, quando due lupi, due cervi, due mammiferi, qualunque, e spesso i maschi lo fanno, lottano o combattono per l'accoppiamento con una cerva o con una lupa o con un essere della propria specie di sesso femminile, c'è un conflitto, in quel caso c'è un tipo di conflitto, due maschi si combattono per avere il privilegio di accoppiarsi con una femmina. Se questi animali facessero davvero l'uso della forza di cui i loro corpi li mettono in grado, ci sarebbe probabilmente una drastica diminuzione di popolazione. All'incirca metà dei maschi morirebbero. I lupi hanno tutti zanne, unghie, eccetera, in grado, eccetera. Voi tutti vedete che questo non capita, no? Non capita. Perché? Perché anche a livello animale c'è qualche cosa, c'è un dispositivo che è embrionalmente un dispositivo sociale, embrionalmente un meccanismo rappresentativo, non c'è linguaggio, però c'è già qualcosa che prelude al linguaggio, ed è l'esibizione della forza. C'è sempre la forza dietro, io sono più forte di te, io più di più. È l'esibizione. Quando il gorilla, per tenere lontani gli intrusi dal proprio branco, arriva, come fa King Kong nel film, ma perché lo fanno davvero, il gorilla urla e si batte il petto, cosa fa? Che fa un rumore, una casa classica bella ampia, questo rumore dice guarda che sono forte, guarda che sono. Poi se l'altro arriva, fa un passo avanti, gli urla, gli scopre i denti, i cervi, i lupi, spesso è pieno, fanno un sacco. Poi magari quando voglio arriva, gli dai un morso, certo, ma non è che stai lì e lo attacchi e lo... Se c'è una cosa, io quando... Chi è che ha letto Zana Bianca? O il richiamo della foresta? Nessuno. Allora, quando eravamo piccoli noi, della mia generazione, Jack London era un scrittore molto interessante, non era un scrittore per i ragazzi. Però c'erano alcuni libri di Jack London, c'erano due ragazzi, i due principali erano due storie cani, entrambi i cani che rinselvatichiscono o rischiano di rinselvatichire, cioè di tornare lupi. Uno è Buck, il protagonista del richiamo della foresta, e l'altro è questo cane detto Zana Bianca. Non ricordo più in quale dei due. E sono storie, sono la variante, diciamo, canina delle storie dei bambini, diciamo, sfruttati, bambini abbandonati e, diciamo, sfruttati, una cosa da bambini. Perdono il loro padrone, insomma, Buck, mi ricordo meglio il richiamo della foresta. Lui è il cane, Buck è il cane di uno, un tipo di un padrone, qualcuno glielo ammazza, credo, muore di un incidente di caccia, lui rimane così, insomma, sbandato, viene preso e passa da un padrone all'altro, ma tutta quanta gentaglia, cioè priva di scrupoli, eccetera, eccetera. E a un certo punto, per esempio, Buck, mi sembra che sia Buck, non mi capisco se è Barba, perché le storie sono simili. Allora, diciamo, Buck viene addestrato alla lotta, a combattere contro altri cani, no? E, vabbè, la storia di Ron, ovviamente lui, il romanzo è narrato in prima persona, quindi si fa finta che parli il cane, insomma, no? Cioè, però è bello, perché Jack London si sforza comunque di entrare in quella che potrebbe essere una figlia canina. E insomma, a un certo punto c'è una scena in cui lui lo fanno combattere contro un bulldog cattivissimo, cani come fanno tutti quelli che fanno le lotte di animali, sia le lotte di cani, sia le lotte di galli, eccetera. Bisogna trattarli malissimo, questi animali, bisogna veramente trattarli male, perché sennò non combattono, tenerli a digiuno, picchiarli, eccetera, eccetera, fare di tutto, così quando poi devono combattere sono abbastanza cattivi. Insomma, si trova contro un cane cattivissimo, che è più forte di lui, insomma, il quale a un certo punto gli azzanna, non proprio sulla carotide, ma verso il collo, e lui descrive la forza di queste due mascelle, insomma, no? Di questa leva, proprio, che si stride sempre di più. Adesso non mi ricordo bene, perché insomma è tanti anni, era una lettura, non l'ho più poi riletto, però mi ricordo, questa scena mi è rimasta in mente. Però se non vado errato, a un certo punto in qualche modo Jack London trova il modo di fare osservare che questa che questo modo di fare non è tipico dei lupi, non è tipico degli animali selvatici, è tipico degli animali, virgolette, civili, cioè degli animali che sono stati a lungo con l'uomo e che l'uomo ha tutto. In una lotta normale, poi a un certo punto mi ricordo che mi ha colpito perché racconta che per tenere via, per non fare ammazzare Buck, perché il cane non è che gli vuole bene, ma voleva farci altri soldi, se me lo ammazzano adesso non fa più colpo più come combattimenti, devono infilare tra le mandibole di questo cane la canna di una pistola e fare leva per riuscire a sorprendere cose che sono era. E mi sembra che Jack London osserva proprio questo, forse una delle prime volte che ho letto quando ero piccolo questa osservazione, cioè che gli animali non praticano mai la violenza fino all'ultimo, non la cioè si fermano prima. Manifestano la superiorità. È una sorta di violenza ritualizzata, ma in realtà, certo, sono sempre rapporti di forza, pure quelli. Però, attenzione, non è detto che quando i due gorilla si incontrano sia davvero il gorilla più, quello che è davvero più forte che fa scappare l'altro. Perché siccome è una manifestazione di superiorità, è una violenza ritualizzata, è una violenza rappresentata. Possono fingere anche gli animali. Se vedete il bellissimo libro di Lawrence, L'anello di Re Salomone, o anche L'uomo incontrò il cane, trovate vari esempi di Lawrence, che era un grande etologo, un grande studioso di animali, uno che ha vissuto tutta la vita a contatto con gli animali, il quale lui racconta delle storie di animali che fingono, animali che fanno finta. Non è che fingere è una cosa soltanto umana. Certo, fingere con il linguaggio è 10 volte più potente, è uno strumento di finzione molto più potente il linguaggio. Io posso raccontarvi un sacco di palle, potrebbe non essere mai esistito questo Thomas Hobbes, lui le storie, poi vorrei, adesso avete cose, quindi so che avete internet, avete Wikipedia, qui no, ma quando faccio lezione in NABA, che tutti hanno il computer acceso, eccetera, eccetera, non si può più dire più di palle, perché tutti vanno, controllano e in io tre volte non mi ricordo l'anno, gli ho detto, non mi ricordo l'anno, se voi c'è cosa, chiamate Wikipedia, trovate Thomas Hobbes e mi correggevate, mi dicevate in diretta l'anno, no? Quindi, comunque, parlando si può, come dire, mentire, ma fingere si può comunque. E quindi ogni volta che non c'è l'esibizione, cioè, come dire, l'esercizio definitivo, sino in fondo, portato sino alle estreme conseguenze della forza, c'è lo spazio, c'è uno spazio di rappresentazione, di proto-rappresentazione, di embrionale rappresentazione, non linguistica, certamente, ma pur sempre di rappresentazione. Quindi, ed è per questo che non c'è questa moria di lupi o di cervi o di gorilla, non si ammazzano davvero per una donna. Alcuni esseri umani sì, con gli animali non è che si ammazzano davvero, qualche volta capita se uno sbaglia, però insomma, diciamo in genere sbaglia perché sì, perché si scivola, gli va a togliere, già che ci sono, no. Però diciamo sì. C'è questo modo anche, questo cioè spesso quando c'è invece una lotta per qualcosa di un po' più, non so, il controllo di un certo territorio, eccetera, eccetera, l'animale che soccombe spesso, nei lupi questo insomma, capita, l'animale che soccombe ha un modo per esempio quasi sicuro per salvarsi, smette di lottare, si butta per terra e mostra la gola. Offre la gola. E allora questo è un atteggiamento tipico del cucciolo. Sono i loro cuccioli che fanno così. Cioè che fa. Allora, quando l'animale adulto che lotta assume l'atteggiamento del cucciolo, scatta un istinto nell'altro animale, si ferma, c'è una via di istinto inibitore della, come dire, violenza, no? E quindi sì. Allora, violenza e forza non esercitate in maniera esplicita, non esercitate sino in fondo, sino all'ultimo, ma anche dentro una situazione di cooperazione di base, diciamo, in società pre-agricole, un problema di rapporti di forza si pone comunque, tanto più si pone in una fase successiva, quando con la società agricola c'è una posta in gioco, c'è un sovrapprodotto sociale, cioè si produce più di quello che si consuma. No? L'agricoltura è come per il linguaggio, l'uomo usa sempre strumenti sovrabbondanti, cioè che gli producono più di quello che gli serve. Il linguaggio è così, eh? Il linguaggio è per questo che è stupido dire che il linguaggio è uno strumento di comunicazione. Tutti quanti gli animali comunicano. Che c'è bisogno del linguaggio per comunicare sulle cose basilari degli esseri umani? No, che non ce n'è bisogno. Basterebbero i sistemi molto più elementari che usano tutti i mammiferi, vocali e diciamo gestuali, eccetera, eccetera. Il linguaggio non è uno strumento, certamente si comunica anche con il linguaggio, è ovvio, ma è prevalentemente uno strumento di rappresentazione, di autorappresentazione e di rappresentazione, diciamo, sociale, socializzabile, collettiva, collettivizzata. Quindi il linguaggio è uno strumento sovrabbondante rispetto allo scopo della comunicazione. Così l'agricoltura è una tecnica sovrabbondante rispetto all'esigenza di procurarsi del cibo per la comunità che la pratica. Il cacciatore e raccoglitore consuma tutto il cibo che raccoglie, mangia tutta la frutta che raccoglie, anche perché non si potrebbe conservare, mangia tutta la carne dell'animale che ogni tanto uccide, che ogni tanto caccia. Ma quando io coltivo la terra, trovo facilmente che quello che ricavo, anche da un piccolo appezzamento, nutre più, eccede quello che io e le 2, 3, 4, 5, 10 persone che avevano lavorato a quella cosa avevamo consumato. E quindi si crea un sovrapprodotto sociale, cioè il grano, si tira il grano, una parte si consuma nell'inverno, ma ne rimane un po', poco o tanto, diciamo che sia, che può essere stivato, questa è l'origine della, diciamo, civiltà. E quindi bisogna costruire intorno un'organizzazione che poter gestire questo sovrapprodotto. Se è un mucchiettino di grano così, contro un cazzo, ma quando cominciano ad essere montagne, chi si può costruire sopra, l'Egitto è costruito sopra i faraoni. L'organizzazione, poi la carriera, la religione, eccetera, però al fondo c'è questo. Bene, quando c'è quella situazione è ovvio che i rapporti di forza sono ancora più importanti, ma ripeto, i rapporti di forza sono ineliminabili, presentano sempre comunque, sia pure in senso ritualizzato, in senso esibito, in senso non portato fino in fondo, cosa che già fanno anche gli animali, ripeto, quindi non è che siamo tanto più bravi noi, anzi, a volte noi siamo più, diciamo, crudeli e più la portiamo fino in fondo più di altri, insomma, no? Quindi, insomma, per chiudere, la questione del dogmatico e dell'assolutista che dice al relativista: guarda che se c'hai ragione tu, allora non abbiamo altro strumento che il ricorso alla forza, se posso dirla così, è come il bue che l'aveva cornuto all'asino. Si dimentica o si vuole dimenticare, o capita di dimenticarsi l'assolutista, che il ricorso in ultima analisi alla forza o la minaccia della forza, tutti gli stati come nascono? Ma pensate alla storia di Roma, cioè ai racconti sulla confondazione di Roma, cioè nascono tutti da o dalla forza o dall'inganno. Cartagine, come viene fondata Cartagine, sapete? Che viene dato, pazzo, gli viene dato che un dio dice alla regina, dice alla regina Cardini, ti darò un pezzo di terra, terra quanto la pelle, quanto può ottenere la pelle di un bue, lei lascia un filo, cioè, lei taglia, tagliuzza la pelle, fa delle lunghissime strisce, fa una... E la sistema strutturista, ecco qua, questa cosa è la pelle di un burro. Cioè, lo prende perché tiro, è come la storia di Prometeo quando fai, no? La struttura non lo so. No, Prometeo quando Zeus gli dice, ci sono insomma separati, gli uomini dagli dèi, gli uomini devono fare i sacrifici agli dèi e bisogna stabilire quando si sacrifica un animale quale parte va agli uomini e quale parte va agli dèi. Allora Zeus, fidandosi di Prometeo, dice, bene, fai tu le parti, occupati tu di questa cosa. E Prometeo, che per qualche strana ragione c'è un po' gente all'Arno Zeus, lo ha aiutato a vincere i titani, pur essendo lui stesso un titano, però è un corso a livello, no? Allora gli fa uno scherzo, e cioè prende macella il burro, eccetera, eccetera, poi prende la pelle e fa un mucchio con le ossa e il grasso, quello che noi diremmo che è la parte di scarto, e la mette sotto la pelle, cioè gli mette sopra la pelle così che il bue appare bello, la pelle di bue. Poi prende tutta la carne rossa, sanguinolenta, che fa un po' schifo a vederla, e fa un altro mucchio, lo mette nella parte. E poi dice, chiama Zeus, e dice, scegli tu quale parte vuoi. E Zeus, che fa una figura veramente un po' del cazzo in questo mito, perché sono come uno scemo, dice, oh, quella lì che è più bella. Poi scopre sotto, cerca. E in effetti, perché è la parte di Zeus questa? Perché quando si scarta, ovviamente la carne se la mangia gli uomini, si fa il mucchio delle ossa e del grasso, si dà fuoco e quello è il fumo del sacrificio che sale fino in cielo, fino all'Olimpo, dove Zeus si fa una canna con il grasso del coso, cioè, con il fumo. Quindi c'è spesso c'è questo trucco, questa cosa. Questo. Quindi chiaramente, come dire, l'inganno può consentirci di aggirare la questione della forza, certo, ma in ultima analisi sarà sempre la forza che, ripeto, le città quando si fondano, no? Cioè quando Romolo e Remo, Romolo uccideremo, no? Uccideremo, uccideremolo. C'è un assassino rituale, cioè le mura di Roma, Roma viene, come dire, fondata e nel solco su cui sorgeranno le mura c'è il corpo del fratello gemello del primo re, insomma, che c'è la forza, la con violenza, la morte pure, insomma, in qualche modo, sono comunque delle certamente il linguaggio in quanto tecnica di rappresentazione e quindi in quanto strumento che consente di dire anche bugie, che consente di mentire, che consente di creare rappresentazioni false, è ovvio che può aggirare, quindi è ovvio che il linguaggio è un elemento di mitigazione della forza, ma non illudiamoci, non siamo ipocriti. Siamo animali come gli altri e quindi siamo dotati di un corpo e quindi è la forza diciamo del nostro corpo, non è così dicevo, non è così brutto, non è così sbagliato che è la forza. Io voglio dire, trovo più scandaloso al limite semmai che ci sia una parte della, come dire, società istituzionalmente delegata ad esercitare la forza sugli altri, questo sì, cioè che ci sia un esercito, che ci siano delle prigioni, che ci siano delle istituzioni nelle quali è legittimo usare la forza, che ci siano delle ragioni per le quali è legittimo privare la libertà un essere umano o addirittura in altre società ucciderlo. Come dire, tutte queste istituzioni sono uno scandalo, ma che uno dei parametri sui quali si decide una certa cosa sia la forza, non ci trovo niente di male. Forza ritualizzata, forza esibita, forza non portata sino in fondo, ma insomma quando si fa uno sciopero o si fa una manifestazione, che cosa si fa? Se non esibire la forza di tante persone, ognuno di noi, io sono una mezza sega, non cosa di persona mi picchio, le prendo comunque. Ma se trovo 10, 20, 40, 50, 2000 amici come me, piccolini tutti, siamo 2000 mezze seghe, ma in piazza possiamo battere, potremmo battere, non vogliamo farlo, non facciamo neanche, però è sempre l'esibizione della forza, no? Quando Berlusconi porta a San Giovanni 150.000 persone, dice che sono milioni, ma cosa fa? Dice no, guardate, io ho i giudici che mi vogliono, che sono contro di me, ecco, non esibisce la forza, si esibisce la forza, il numero è forza. Quindi una forza ritualizzata, una forza. Poi, siccome dire, ripeto, storicamente, quelli che più di altri hanno ammazzato le persone che non la pensavano come loro, quindi hanno usato la forza veramente sino in fondo per risolvere i conflitti, sono stati universalisti, no? Non certo noi poveri e pacifici, più o meno pacifici, relativisti. Allora, andiamo giù, andiamo a vedere questa roba, così i nostri amici sono salvi.